L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'Altro Pianeta, appuntamento settimanale con la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente su Radio 24. Questa settimana vi raccontiamo una bella storia che arriva dal MADE Expo 2012, si è tenuto, ricorderete, recentemente a Milano, dove è stato esposto un prototipo di casa biocompatibile realizzato con un composto di calce e canapa. È un progetto degli architetti Aldo Cibic e Tommaso Corà e della Equilibrium, una società che ha basato il suo business sull'attenzione per l'ambiente utilizzando la canapa. Un'azienda che qui in questa trasmissione conoscemmo ormai diversi anni fa, quando era piccola, quando era agli inizi, e che poi abbiamo nel corso degli anni seguito fino a ritrovarla appunto al MADE Expo con questa bel prototipo di casa che ha visto Irene Privitera per noi. Buon pomeriggio, Irene. Buon pomeriggio Laura e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori dell'Altro Pianeta. Tra poco faremo sentire le tue interviste proprio su questa casa in calce e canapa, dove la particolarità è soprattutto la canapa, ma ci sono appunto delle possibilità di utilizzo interessanti della canapa nel settore della edilizia. Ma tu hai visitato non solo quella ma anche tutto il padiglione dedicato e le parti dedicate al Green Home Design. Intanto dici di che si tratta, che cosa si intende con Green Home Design? Ecco, Green Home Design è una mostra interna alla Fiera Internazionale di MADE Expo che effettivamente attirava l'attenzione di visitatori, di esperti, perché in pratica si trattava di tre installazioni, riproduzioni in scala 1-1 di altrettante case ecosostenibili. Anzi, una di queste, a dire la verità, era una scuola per l'infanzia, un asilo, la Green Kinder Home. E in realtà si poteva passeggiare all'interno di queste case, quindi viverle, fare le domande, chiedere le proprie curiosità agli architetti che erano lì apposta. A parte quindi la casa di canapa, della quale appunto ci occuperemo in maniera un po' più approfondita, un'altra casa era in acciaio, con un telaio in acciaio, e un'altra ancora, altre due, diciamo, delle esposizioni in legno, in lamellare in legno. Poi sono delle cose un pochino più specifiche, ecco, che magari quello che ci interessa tanto di queste installazioni è il fatto che insieme al design, perché erano veramente belle, si unisce la grande funzionalità e tutte quelle caratteristiche di ecosostenibilità che alla fine oggi come oggi sono davvero tanto richieste. Qualcuno che vuole comprare, mi spiegavano gli addetti ai lavori, una casa oggi come oggi la vuole con determinate caratteristiche di rispetto del pianeta, è un'esigenza che sta crescendo sempre di più, però in realtà la casa è anche il nostro nido, quindi la vogliamo anche bella. Ecco, in questo caso erano veramente coniugate queste due caratteristiche. E appunto adesso ascoltiamo le interviste che tu hai realizzato lì nel corso del MADE Expo. La prima è a Tommaso Corà, che è appunto uno degli architetti che hanno progettato questa casa, no? Sì, Tommaso Corà è un giovanissimo architetto che è stato la mia guida all'interno della, diciamo, nel percorso del tour che ho fatto all'interno della casa in calce e canapa, progettata appunto da Tommaso Corà insieme ad Aldo Cibic. Sono loro i due architetti del Cibic Workshop. E allora adesso sentiamo com'è fatta questa casa proprio dalle parole di Corà. Una parte del nostro lavoro appunto ha previsto in questi anni lo sviluppo di installazioni al vero, quindi la costruzione di vere case sperimentali, confrontandoci con tutto quello che era il catalogo possibile e aggiornato delle tecnologie costruttive ecosostenibili. Abbiamo iniziato nel 2004, contemporaneamente a un'installazione che avevamo fatto in biennale proprio su progetti di sviluppi nel territorio sostenibili. Oggi siamo qui con una casa che è fatta in parte in telaio metallico e costruzione a secco e in parte in calce e canapa. Cercare di far vedere a chi non può, perché è un ascoltatore radiofonico, quello che noi abbiamo il piacere di vedere adesso insieme, appunto raccontarla e quindi cercare di farla anche immaginare. Una casa fatta di due volumi, costruite in fiera esattamente come sarebbero costruite in un esterno, in una città o in un luogo di natura fuori dalla città in mezzo alla campagna, che interpretano in due modi diversi ma estremamente attuali la sostenibilità nelle costruzioni. Una è un atteggiamento più industriale con materiali riciclati e riciclabili, ma di produzione industriale. Questo per quanto riguarda la casa in acciaio? La casa in acciaio. E una invece è un trionfo della sensibilità naturale nel recuperare tutto quelli che sono i materiali naturali che garantiscono oggi una casa di grandissime performance energetica, di grandissimo benessere, comfort, con un materiale nuovo che è la canapa, ma che in realtà viene da lontano, perché la canapa era una delle colture agricole principali in Italia negli anni 30 ed è stata abbandonata per logiche industriali, e oggi sta venendo recuperata perché offre delle qualità molto interessanti, non solo nelle costruzioni. L'azienda che ha realizzato questa, che gestisce la costruzione con questa tecnologia, che si chiama Equilibrium, ha chiamato biomattone questo mattone che loro realizzano, tra l'altro in un ex cementificio, quindi c'è un concetto di recupero che travalica la realizzazione della casa, ma si cerca di applicare in tutto il processo e in tutto il contesto della cosa, e che è appunto un mattone fatto di una miscela di calce e canapa, due parti di calce e una parte di canapa. In realtà la casa che abbiamo costruito in fiera in questa occasione è in parte in questi biomattoni e in parte proprio viene gettata una miscela di calce e canapa che dà una finitura che ricorda quasi le case in terra, ma con tutte le performance che sono richieste oggi a una casa moderna, quindi molto materica ma molto resistente, molto traspirante, isolante ma anche molto naturale, e quindi coniuga tutti questi aspetti in una cosa che più che nuova to cure è un recupero delle vecchie tecnologie in maniera contemporanea. Questa casa è fatta di due unità, una parte residenziale dove stiamo entrando ora è fatta di un soggiorno, due stanze da letto e due bagni. Nella zona, diciamo, giorno c'è un piccolo soggiorno, una cucina e la zona pranzo. C'è un motivo per cui il tetto è fatto mediamente basso, direi? Allora, cerchiamo di lavorare al minimo delle altezze, perché le altezze basse danno sempre un grandissimo calore in questo tipo di case, e tutti i materiali poi che abbiamo utilizzato sono dei materiali caldi molto materici. L'intonaco anche interno è fatto con canapa, i divani sono dei divani realizzati con tessuti riciclati dalle tende militari americane, la cucina è fatta con dei nuovi laminati ottenuti dal riciclo delle carte da giornali, quindi è un tentativo di essere contemporanei ma in grande rispetto con la natura. Ci possiamo spostare nella zona notte. Questa invece è la stanza dei bambini, se vogliamo. Questo è legno e letto a castello, questi sono abete sbiancato, è un materiale molto povero, ma lavorando sull'equilibrio sembra molto elegante. Anche i tessuti sono dei tessuti di questa azienda che recupera tessuti antichi dai mercatini e li rilavora in modo nuovo. Gli arredi sono in legno e in plastica riciclata, quindi l'illuminazione è tutta LED, quindi sembra di lavorare con gli pochi elementi e con grande attenzione per sviluppare un ambiente caldo ma attento a tutto quello che è il contesto di cui abbiamo parlato. E quindi rimane l'ultima stanza, eccoci. In questo caso forse ti potrei parlare di quello che è il bagno, che anche lì abbiamo cercato di utilizzare dei materiali nuovi, e sono delle resine, in questo caso ci sono queste resine che vengono chiamate ecomalte, che sono delle resine senza nessun materiale sintetico. Quindi le resine sono bellissime, ma spesso hanno dei componenti sintetici che non sono assolutamente biodegradabili e molto dannosi per l'ambiente. In questo caso invece sono tutti materiali biodegradabili. Il rubinetto, per dire, è un esempio di quanto oggi la sostenibilità si può sviluppare in piccoli gesti e non in tecnologie mirabolanti. Il rubinetto tradizionale ha l'acqua tiepida al centro, e quando noi usiamo l'acqua consumiamo sempre senza volerlo dell'acqua calda e quindi sprechiamo sempre energia. In questo caso l'acqua fredda è stata messa al centro e l'acqua calda a destra. È un piccolo gesto, ma che già nell'utilizzo quotidiano di tutti i giorni fa risparmiare non so quanti tonnellate di gas che non viene utilizzato per scaldare acqua calda, di cui nessuno ha bisogno. Questa seconda costruzione è realizzata con una tecnica costruttiva diversa, che è appunto un telaio metallico con dei pannelli precompressi di laterizio e degli isolamenti in poliestere riciclato, che viene dalle bottiglie dell'acqua che noi beviamo tutti i giorni, che viene risminuzzato e diventa isolamento per le case. è una tecnologia diversa, gestita in maniera più industriale. I materiali sono industriali, non sono naturali, ma è un modo comunque interessante di rispondere alle performance, alle nuove richieste di performance energetiche e di sostenibilità, perché volendo un giorno può essere smontata e rimontata in un altro luogo col completo recupero dei materiali. Nell'idea di queste due tecnologie che si incontrano nel creare una casa fatta di due volumi, se quella di prima in canapa era l'unità residenziale risolta in circa 60 metri quadri ma con tutti gli spazi giusti per fare per vivere tutti i momenti della quotidianità, questa è l'idea di un piccolo atelier studio per chi può lavorare a casa piuttosto che non svolgere altri lavori, e una piccola stanza da letto al piano di sopra, 20 metri più 20 metri quadri, per degli ospiti, per un'altra coppia che può vivere, dotata di un piccolo cucinotto perché possa essere indipendente. Quindi è l'idea di una comodità che si sviluppa anche proprio nel come sono pensati gli spazi, coerentemente con i materiali utilizzati. Se io volessi comprarla un giorno questa casa, quanto mi costerebbe? Diciamo che se il prezzo ideale medio del mercato del costruito è di circa 1000 euro al metro quadro, costruendo con la canapa si riesce a stare un 5-10% più basso con una casa che ha delle performance energetiche e anche di comfort all'interno molto più alte. Lo stesso nel coltellaio metallico, siamo analoghi al tradizionale, però con dei tempi di costruzione che abbattono di metà la realizzazione di una casa. Siamo sempre in collegamento con Irene Privitera, che appunto ci ha portato questa intervista all'architetto Corà, nella quale abbiamo parlato di questa casa con il biomattone che però, Irene, è appunto ideato e realizzato da una ditta di nome Equilibrium, che è cresciuta molto negli anni, ha trovato il suo spazio, e tu hai incontrato Paolo Ronchetti, che è il general manager. Esatto, Paolo Ronchetti, anche lui giovanissimo, quindi devo dire una squadra di ragazzi che hanno... Che piacerebbe a Renzi, quindi. Questo progetto è davvero, davvero interessante, devo dire che attirava l'attenzione anche proprio a livello estetico. E Paolo Ronchetti ci spiega le caratteristiche di una casa costruita con il biomattone. Partiamo dal risultato, quindi una casa costruita in natural beton di calce e canapa ha il vantaggio di avere una temperatura interna costante e un'umidità relativa interna costante. Perché succede questo senza bisogno di impianti per riscaldare o raffrescare o comunque regolare l'umidità? Perché fortunatamente la canapa è un materiale che è chiaramente legata con la calce, è un materiale che regola incredibilmente l'umidità, è un polmone, quindi respira e espira umidità, quindi regolandola, e oltretutto è un altissimo isolante dal punto di vista termico nonché acustico, e di conseguenza l'apporto di energia e quindi i costi per riscaldare la casa d'inverno e raffrescare la casa d'estate sono pari a zero, limitatissimi. Chiaramente tutto dipende dal pacchetto di finitura che si va a realizzare sulla casa. Un'altra caratteristica legata, diciamo, all'aspetto ambientale di questo materiale è che grazie all'altissima presenza di canapa in questi materiali, nel natural beton o nel biomattone che è il blocco realizzato con natural beton, si hanno emissioni di CO2 sotto lo zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che andando a calcolare lungo il ciclo di vita di questo prodotto quelli che sono le emissioni di CO2, quindi l'energia utilizzata per produrlo, dall'estrazione delle materie prime alla trasformazione delle materie prime all'utilizzo e allo smaltimento, il bilancio di CO2 è negativo. Perché? Perché la canapa durante la crescita, in soli 4 mesi, assorbe così tanta CO2 e cresce così velocemente che va a compensare, anzi overcompensare rispetto a quelle che sono le emissioni degli altri materiali utilizzati nell'edificio, nonché dei trasporti, nonché dei costi di smaltimento. Dunque siamo giunti al termine di questa prima parte dell'Altro Pianeta, proseguiamo ovviamente come sempre dopo la viabilità. Salutiamo e ringraziamo Irene Privitera per essere stata anche quest'anno con noi dopo la visita al Made Expo, grazie. Grazie a te Laura, e buon pomeriggio e buon proseguimento a tutti. E quindi viabilità, e proseguiamo tra poco per parlare ancora di edilizia, sostenibilità ed efficienza energetica. L'Altro Pianeta. Eccoci di nuovo in studio. Come promesso, se nella prima parte del programma di oggi abbiamo parlato di edilizia efficiente realizzata con materiali sostenibili, ora restiamo in tema, ma da un altro punto di vista, perché non di soli edifici nuovi è fatta l'Italia, anzi lo sappiamo bene. Nel corso della settimana la Commissione Ambiente della Camera ha approvato una disposizione che chiede di stabilizzare fino almeno al dicembre 2013 l'ecobonus del 55% per gli interventi di risparmio energetico in edilizia ed estenderlo piuttosto anche agli interventi di messa in sicurezza antisismica. Ci auguriamo che il Governo tenga conto del parere della Commissione Ambiente, dice Ermete Realacci, che è il responsabile Green Economy del PD ed è anche stato uno dei primi firmatari del manifesto per il 55% che prima di arrivare alla Commissione Ambiente della Camera è stato proposto da Federlegno Arredo, Centro di Informazione sul PVC e Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe. Sentiamo Realacci. Questa misura fu varata la prima volta nel governo Prodi, io ero presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera, partì da un'iniziativa della Commissione ed è una misura che ha avuto successo perché al tempo stesso ha prodotto una importante spinta sul risparmio energetico nell'edilizia, che è uno dei settori più importanti dal punto di vista del risparmio energetico e importantissimi risultati anche dal punto di vista economico, occupazionale, dell'evoluzione del sistema di imprese. Stiamo parlando di una misura che ha interessato 1.400.000 famiglie italiane, prodotto oltre 17 miliardi di euro di fatturato e 50.000 posti di lavoro all'anno e oltretutto ha favorito in misura formidabile l'evoluzione e l'innovazione nel settore, perché quando parliamo del 55% non parliamo solo di edilizia, un'edilizia peraltro ripulita dal nero, perché poi per ottenere la misura bisogna fatturare. E questo non è da poco. No, quindi un'edilizia più sicura, più pulita, di piccole e medie imprese e una filiera che migliora, perché significa parlare anche di nuovi materiali, di serramenti, di caldaie, di una maniera nuova di costruire che alla fine risparmia energia e risparmia anche le bollette delle famiglie, perché fra una casa costruita bene e una casa costruita male passano almeno 1.000 euro all'anno di bolletta, ecco, quindi non stiamo parlando di una misura assolutamente virtuosa che a mio avviso su questo fatto degli ordini del giorno insieme ad altri colleghi che il governo accoglie ma poi ignora, andrebbe estesa anche ad altri settori, non solo per quanto riguarda il 55%, andrebbe esteso con misure appropriate anche all'edilizia pubblica, alle imprese, ma anche alla sicurezza antisismica. Ecco, peraltro sottolineo che anche nell'ultima proposta da parte del governo di un piano per discutere sulle politiche energetiche o nei documenti che l'Italia invia all'Europa per far vedere che sta facendo sul serio sul risparmio energetico, questa misura è sempre lodata come una delle migliori. Peccato che poi non viene considerata adeguatamente. Una beffa. La ringrazio molto, buon lavoro e a risentirci, speriamo con buone notizie su questo fronte. Spero anch'io. E restiamo sempre in tema di Commissione Ambiente, che ha votato invece in questo caso per la soppressione di una norma della legge di stabilità, quella sull'abbassamento della illuminazione pubblica, nota come cieli bui. Rimane il comma che prevede di puntare alle tecnologie di risparmio energetico e per parlare però di questo tema abbiamo voluto convocare un ospite del programma già in precedenti occasioni, che è Mario Di Sora, presidente dell'Unione Astrofili Italiani, che invece aveva sostenuto con entusiasmo l'iniziativa del governo, vero? Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Certo, vorremmo precisare che questa operazione che il governo con grande sensibilità portava avanti non era volta a rendere le città buie, ma semplicemente a razionalizzare il parco illuminotecnico italiano, che è molto carente, non tanto per la mancanza di luce ma per l'eccesso. Questo noi lo constatiamo bene per due motivi: in primo luogo perché ovviamente siamo osservatori del cielo notturno, ma soprattutto perché alcuni di noi si dedicano ormai da quasi 20 anni allo studio specifico dell'inquinamento luminoso, con riferimento anche ai consumi di energia, e quindi è emerso che l'Italia, diciamo, in Europa è uno dei paesi che spende di più per l'illuminazione pubblica, spende più del doppio della Germania, più del 30% rispetto alla Francia, superata soltanto, guarda caso, dalla Spagna. I livelli di illuminanza delle strade italiane, prendiamo un caso specifico Roma, sono mediamente 4 volte superiori ad esempio al valore della luminanza delle strade di Berlino che si trova in Germania. Quindi stiamo parlando di strade, proprio esatto, l'illuminazione delle carreggiate. Stiamo parlando di strade, monumenti poi dall'altro non essendo illuminazione a carattere di sicurezza, possono benissimo essere spenti dopo una certa ora. E lei mi diceva, le regioni italiane hanno già legiferato in materia per la riduzione degli sprechi. Ma sì, quando queste leggi regionali sono state approvate, diciamo dal 1997 fino ad oggi, Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, nessuno ha detto niente. Adesso che il governo in un certo qual modo richiamerebbe i comuni ai loro doveri, è sorto diciamo questo problema che si rendono le città buie, che vanno a essere ridotti i livelli di illuminazione, ma partiamo da livelli di illuminazione che sono esorbitanti in partenza. Noi ci siamo conosciuti per un accordo che era stato fatto tra l'Unione Astrofili Italiani ed Era Luce, proprio per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso. Certo. Come procedono le cose su quel fronte, quindi nel particolare della regione Emilia-Romagna? Ma guardi, su quel fronte le cose vanno abbastanza bene e le dirò di più, che alcuni comuni dell'Emilia-Romagna, ma anche in Veneto, sta succedendo in altre regioni italiane, vanno oltre quell'accordo perché si sono resi conto che non hanno più le sostanze economiche per poter far fronte a impianti faraonici che hanno realizzato negli anni precedenti, in alcuni casi li spengono totalmente. Uno dei comuni che è conosciuto per aver fatto questo in modo massiccio, ad esempio, è Piove di Sacco, che si trova in Veneto. La ringrazio, Mario Di Sora, presidente dell'Unione Astrofili Italiani, buon lavoro e a risentirci. Grazie a voi. Adesso è tempo di dare spazio ad Articolo 9, la nostra rubrica dedicata alla tutela del paesaggio e del territorio italiano. Buongiorno da Marco Carminati. Un anno fa una terribile alluvione ha sconvolto le Cinque Terre, uno dei luoghi più incantevoli della nostra Liguria. A un anno di distanza siamo andati a vedere a che punto siamo e ci guida in questa ricognizione proprio il presidente del Parco delle Cinque Terre, il dottor Vittorio Alessandro. Buongiorno, dottor Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, voi avete fatto veramente un miracolo, avete fatto passi da gigante. Che cosa avete fatto in quest'anno per ritornare, diciamo così, alla normalità? In quest'anno i due comuni colpiti dalla terribile alluvione, i comuni di Vernazza e Monterosso, hanno lavorato alacremente per riportare alla luce, perché di questo si tratta, le bellezze dei rispettivi paesi. È stato in realtà riportato il lustro di prima, se non addirittura migliorate alcune condizioni di questi luoghi. L'impegno svolto in questa opera di ricostruzione è stato il segno ancora una volta della ostinazione positiva delle comunità delle Cinque Terre, la stessa ostinazione che negli anni ha consentito di modificare quel territorio con i terrazzamenti, e a fronte di quella verticalità, di quella asprezza dei luoghi, creare delle condizioni di bellezza paesaggistica che veramente rare in tutto il mondo. Ecco, lei faceva riferimento ai terrazzamenti. Ora, i terrazzamenti sono bellissimi da vedere, sono un'ingegneria dell'uomo applicata alla natura, però sappiamo che lo spopolamento di queste terre è stato una anche delle cause del dissesto. Ecco, che cosa si può fare per tenere in vita questi terrazzamenti? Ma si tratta di trovare forme di incentivazione che costituiscano un invito non moralistico al ritorno all'agricoltura. Ritorno all'agricoltura che è presidio del territorio, che è nuova conoscenza e aggiornata informazione sullo stato del territorio. Oggi è necessario cioè usare il massimo di tecnologia, quella spendibile in un territorio così aspro, come dicevamo prima, certo. Massimo di tecnologia e massimo di possibilità di intervento per queste azioni sull'agricoltura. In questo senso il parco ha lavorato negli anni, ma c'è ancora sicuramente molto da fare. Ecco, che insediamenti ci sono agricoli possibili nei terrazzi, quelli tradizionali probabilmente? Quelli tradizionali che devono essere però mantenuti con i muretti a secco che costituiscono paesaggio dell'UNESCO e quindi devono essere mantenuti nella loro costituzione. E poi sono stati nel tempo creati anche non soltanto i sentieri per facilitare i collegamenti fra le varie aree del territorio, ma anche le monorotaie, quindi questi sistemi di comunicazione verticale che consentono gli spostamento del prodotto dell'agricoltura, ma anche dei massi necessari alla costruzione e al mantenimento dei muretti a secco. Ecco, quindi non solo il turismo, ma questa nuova, rinnovata economia, diciamo così, che tra l'altro era presente da secoli, aiuta moltissimo il territorio, sia dal punto di vista... Io direi soprattutto quella, perché certo, il turismo credo che sia proprio figlio di questa, di questo paesaggio che se dovesse esaurirsi o perdersi, naturalmente non avrebbe più l'attrattiva che ha oggi. Certo, però naturalmente il turismo è una voce importante. Ecco, chi oggi decide di passare una bella domenica magari dalle vostre parti, che cosa può vedere? Dove può andare? Cosa può constatare con mano di questa rinnovata restauro, diciamo così, del paesaggio? Intanto visitare i borghi, questi comuni che sono stati ripristinati, e vedere, non soltanto rivedere la loro bellezza, ma vedere anche, perché i sindaci hanno apprestato delle testimonianze, delle fotografie, vedere anche che cosa nell'arco di poco tempo l'opera dell'uomo è capace di fare per dare, ridare forma e lustro al proprio territorio, all'amato territorio. Questa è già una testimonianza molto importante che offriamo a tutti i visitatori. Certo. E poi ancora una volta vedere come questo equilibrio così complicato e così fragile e bello insieme fra mare e terra, fra uomo e ambiente, sia così unico, così splendido da meritare più di una visita. Certo, quindi ci si rende conto venendo lì non solo che è un posto bellissimo, ma anche della fatica che si deve fare per mantenere questo equilibrio, questa bellezza per il turismo, per l'agricoltura. Quindi insomma lei ci invita a venire a vedere anche la fatica del vostro lavoro quotidiano, tra l'altro fatto quest'anno a seguito di una terribile emergenza. Dottor Alessandro, io la ringrazio molto per la sua partecipazione e anche per l'impegno con cui presidia il bel parco delle Cinque Terre. Grazie professore. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro a lei e naturalmente un invito a tutti gli ascoltatori a recarsi in questi tempi a vedere il Parco delle Cinque Terre, a constatare questa bellissima architettura dei muretti a secco e così con la propria presenza discreta e rispettosa della natura di contribuire al rilancio di questa bella zona italiana. È tutto per questa puntata. Da Laura Bettini appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora e un ringraziamento a Laura Faggin in redazione. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it.